greater than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è stagnante come in un ufficio dell'era bresniaviana, K e Drago stanno cercando di avere notizie dal mondo di fuori. To tell you this frankly, if you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Niente? No, non si capisce, forse la radio è rotta, non so. The radio is broken, it don't work anymore. Aspetta qua, aspetta. Il mullah Saldahari ha preso saldamente il potere nell'Irkmenistan occidentale e ha saldato le posizioni estremiste dei guerriglieri Jab e di quelli Shab da anni in lotta. Saldahari, eletto democraticamente dopo scrutini durati settimane e influenzati dalla presenza fattuale di scimitarre ben affilate, ha affermato che in Irkmenistan d'ora in poi vigerà la regola. La regola del o è così, oppure lì c'è il plotone. Ci mancava ancora l'Irkmenistan. Dopo la minaccia africana di Unghiuti, adesso arrivano quelli dell'Asia centrale con Saldahari. No, Saldahari hai detto. No, ho detto, hai sentito anche tu, il mullah Saldahari. Ma allora, le intercettazioni, l'insider trading. Ma cosa dici, Drago? Saldahari. Insider trading. Saldare? Saldare. Pronto? Hai sentito, K? Saldare? Qui dice chiaramente Saldahari. Ma no, dice saldare, Drago. Dice saldare. Ma sai che i terroristi parlano in codice, no? Ah, bel codice. Un gran bel codice. Saldare al posto di Saldahari, così non capisce nessuno. Saldare. Ah, sì, tu pensa a Echelon adesso con tutte le persone che stanno dicendo saldare in questo momento. Saldare. Impazzisce. Vabbè, intanto tu per primo non avevi capito che Saldahari voleva dire saldare, anzi viceversa. Invece sai cosa ti dico? Che il nostro insider trading ha fatto centro. Ma cosa stai dicendo, Drago? Fai centro anche tu con le intercettazioni telefoniche di Insider Trading. Saldare. Diventa un furbetto del quartiere e fatti chiudere in una cella dotata di coinquilini bisognosi d'affetto e di tutto il parafernalia carcerario che conoscevi solo per sentito dire. E stanno a fare i froci col culo gli altri. Insider Trading. Saldare. La vie en prison, elle a du bien, elle a du bon. Il faut chier devant tous, mais tu as du temps pour flâner. Ah, la vie en prison, ah, la vie en prison. À Lausanne, comme à Dijon, les droits humains fondamentaux sont respectés en prison, sauf une exception. Laquelle? Et l'exception est la règle. Si ton copain est un nègre, oui, ça va sans dire. La vie en prison, ah, la vie en prison, ah, la vie en prison, ah, la vie en prison, ah, la vie en prison. Et l'exception est la règle, si ton copain est un nègre, ça va sans dire, la vie en prison. Vie finita che c'è la partita, no? Poi mi agito, eh? E poi non è che è finita dopo la partita. Dopo la partita episcopale è già un lontano ricordo. Poi devo ascoltare i commenti delle partite, i gol, poi c'è il posticipo. Io quindi a quel momento, da Grenella, in realtà non è che me ne frega più molto. L'episcopale basta. Questa continua a rompere. Chicken seed crap. Il mullah Saldahari, saldamente a capo dell'Irkmenistan occidentale, ha dichiarato guerra all'Irkmenistan orientale, sostenendo che ai tempi di sua bisnonna Mata Hari le regioni erano unite sotto un'unica corona. L'Irkmenistan orientale ha subito chiesto l'intervento dell'esercito birzighistano, tradizionale alleato di sempre. Si teme che il conflitto possa estendersi a tutta l'area, scatenando per reazione altre decine di guerre e guerriglie. Passiamo alla finanza. Bill Gates, dopo aver acquisito la Apple, ha anche acquisito la commissione antitrust e la conferenza episcopale, risolvendo il problema alla radice. Non so se sia un caso o meno, ma praticamente ogni volta che proviamo ad accendere la radio per avere notizie da fuori, veniamo gentilmente informati che c'è stato un golpe. Kappa, cosa ti devo dire? Il golpe funziona quasi sempre. Quasi, sì, quasi. Se non hai la pazienza di metterti lì a fare il politico, organizzare la campagna elettorale... Che benata, sì. Crearti tutta una rete di clienti che a loro volta si creano una rete di loro clienti, no, no, che a loro volta eccetera eccetera, e che alla fine poi ti votano per eleggerti, e il golpe va bene. Meglio fare il golpe, sì. Quindi solo una questione di impazienza, insomma. Impazienza, infatti i militari non hanno la sensibilità per cose futili come la democrazia, il volere popolare, il rispetto dei diritti civili. Ma d'altra parte, se un militare ha a sua disposizione uomini e armi, qual è il motivo per cui deve starsene lì buono a prendere ordini dai politici? Non gli serve. Il motivo in teoria è il senso dello Stato, la fedeltà alla Costituzione, quella roba. Sì, ma ho capito, però dai, scusa. Magari sei il capo di Stato Maggiore dell'esercito, sei già sempre stato un po' vivace, anche a scuola ti chiamavano Isterix. Hai avuto un'educazione un po' prussiana, capito? Ti piace l'idea di una nazione ordinata, dove non si discute, ma si eseguono gli ordini. Insomma, la tentazione è forte. Dai, si capisce. Golpe Temptation. Golpe Temptation. Golpe Temptation, sembra il nome di un profumo. Oppure di un'automobile anche. Sì, Golpe Temptation GTD. Però i golpe funzionano solo in certi paesi. Certi paesi sono meglio di altri. Tipo? In Sud America, per esempio, c'è terreno fertile. Tu ti metti una divisa piena di medaglie, che magari hai vinto alla lotteria del bar, ma non importa. Prometti che sarai tutto dalla parte del pueblo. Arrivi con un centinaio di disperati denutriti pieni di fucili, occupi il Parlamento mentre sta parlando un generale più vecchio di te, ancora più carico di medaglie autoassegnate, spari due colpi in aria, pom, pom, pom. Questi sono tre, ma non importa, molli $100 a testa alle guardie del presidente e sei a posto. Quando esci tu dal balcone invece di quell'altro, il pueblo è tutto contento, non capisce niente. Viva, viva, viva, siamo dal pueblo! Ecco. In Africa invece è diverso. Prima organizzi una bella guerra civile, sanguinaria, ti metti a porto. Tra due etnie che si sono sempre odiate, no? Che però devono stare nella stessa nazione per far comodo agli inglesi, no? Fai questa roba qui, organizzi tutto, poi cerchi di entrare in una tuta mimetica stretta di due misure. Sì. Poi decidi a quale etnia dare l'appoggio, assalti a colpi di bazooka il Parlamento e ne esci presidente. Solo che gli altri poi sono tutti morti, tu sei il presidente. Però vedi qual è il problema? Come fare un golpe in Europa? In Europa la vedo dura. E qui c'è la libertà, c'è l'informazione per tutti. Vuoi mettere. C'è il dibattito politico. Il dibattito politico. Quello sei a posto. Poi c'è la conferenza episcopale. L'unica in Europa sarebbe fare un golpe mediatico. Cioè diventare padrone di tutti i mezzi di informazione. Che cosa succederà adesso? Chi farà il golpe? E dove? E fare un golpe mediatico è davvero così facile? Non sarebbe meglio un golpe militare anche in Europa? Vi lasciamo col fiato sospeso fino a domani a mezzanotte, quando vi risintonizzerete su Radio 3 per il prossimo oscuro allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Good night, ladies. Barumen.